prendasi questo onore al tuo Natal. Siediti. Iniquo, non pensar che comando fica sopra di me la mia sciagura. Sono il tuo re, tal mi rispetta, li siedo. Per son, per te del regno, sono infrante di legni. A voti estremi del genitore disubbidisti. Il sacro giuramento a sprezzare cieca ti mosse, avidità d'impero, ribellarmi impugnasti, e i nostri acciari fuman per te di civil sangue ancora. Gravi son le tue colpe, tu ne reca se n'hai le tue discolpe. Bello per il non peggio, renderò gion a tribunal senico. Tua nuova colpa è questo silenzio contumace. E mancanne di fede, parre a che tace. O rispondi, o attendi, il giusto e irrevocabile decreto. Ma decreto si impegno corror faccia alla terra. E garo si riconduca alla prigion primiera, o con la durerà le tue ritorte, che a disciorle verrà la morte.